Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, un'altra puntata di Focus Economia è appena iniziata. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di Sud, non solo perché domani se ne parlerà a lungo a Bari in un convegno dedicato proprio al Sud che aiuta il Sud in occasione dei 100 anni della Confindustria, ma anche perché oggi la Banca d'Italia è uscita con un rapporto che obiettivamente segnala un problema meridionale, chiamiamolo così, invariato, anzi in alcuni casi peggiorato. Un quinto del lavoro nel mezzogiorno è irregolare, quindi è in nero, e soprattutto è ripartita la corrente di flussi migratori dal sud verso il nord. Tra l'altro, se il PIL per abitante, sebbene sia cresciuto in termini reali a un ritmo analogo, va detto, a quello delle regioni del centro-nord, è comunque inferiore, è pari al 60% di quello delle regioni del centro-nord. Tra l'altro, i contratti integrativi al sud sono più leggeri di circa un 9% rispetto a quelli firmati dalle aziende del centro-nord. Comunque, e poi l'allarme sulla criminalità. Devo dire, visto che già vedo i messaggi sulla corruzione, i dati diffusi ieri dal Presidente della Corte dei Conti, abbiamo avuto un ampio approfondimento su questo, la corruzione e la concussione in aumento, non solo ascoltando l'intervento del Presidente della Corte dei Conti, ma anche parlandone con Piercamillo Davigo, che fu uno dei PM del pool di Mani Pulite. Lo dico perché oggi non tratteremo di nuovo il tema. Dico anche che Davigo era abbastanza d'accordo con l'idea che spesso, quando la crisi economica morde, come nel 92 e come anche adesso, diventa più difficile, tra virgolette, reggere i costi impropri, la tangente o quant'altro, e quindi si arriva a un numero maggiore di denunce, perché questo vuol dire il dato di ieri, cioè sono aumentate del 200% le denunce per corruzione, del 150% le denunce per concussione. Non è aumentato il numero di reati in senso stretto, non lo possiamo sapere. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms. Mezzogiorno dunque in apertura, poi parleremo anche dei Termini Imerese, perché riavremo ospite uno dei protagonisti delle offerte, alcuni di voi lo ricorderanno, Cimino, l'imprenditore Cimino, che vorrebbe, d'accordo con gli indiani della Rava, portare gli stabilimenti di auto elettriche, di produzione di elettricità e di auto elettriche a Termini Imerese. Poi, come sempre, i mercati abbastanza piatti in questo momento, Mibtel invariato, Parigi fa meglio, 0,5% di rialzo come Francoforte, Londra più 0,70, l'America più 0,20 sul Dow Jones in questo momento, l'euro è tornato a 1,36, sta di nuovo scivolando a 1,35,9, molto bene rispetto alla giornata, comunque bene Telecom Italia più 2,2, Mediolanum più 2,1, Bulgari più 1,90, Autogrill 1,5% di rialzo, ST Microelectronics più 1,4. Ancora Parmalat guadagna l'1,3, Tenaris l'1,1, Saipem l'1%, Mediaset l'1%, Enel più 0,90, Mondadori più 0,80, Geox pure. Sul fronte opposto, chi perde di più? Fondiaria SAI il 3,20%, il Banco Popolare perde il 2,45%, Ansaldo perde il 2,33%, Popolare Milano perde l'1,84%, Monte dei Paschi perde 1,5%, Fiat l'1,2%, Unicredit meno 1,1%, Exor meno 1%, Pirelli meno 1%, come Intesa San Paolo e Finmeccanica. L'Ottomatica perde lo 0,7% come Mediobanca e Impregilo. Quindi oggi deboli bancari. Avremo anche un'intervista in diretta con il numero 1 di Terna, e mi riferisco a Flavio Cattaneo, perché oggi Terna ha presentato il piano industriale per i prossimi 4 anni con investimenti che arriveranno a essere di 4.300 milioni di euro, 900 milioni in più rispetto all'ultimo piano industriale, per potenziare la rete di trasmissione elettrica, ma anche, va detto, se parliamo di investimenti, ricorrendo a un'emissione obbligazionaria sul mercato. Allora, 349-238-6666 per gli sms, le notizie in breve. Allora, le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo come sempre dal petrolio. a $76,90, quindi resta altino il prezzo del petrolio. Ancora i sussidi alla disoccupazione americani sono cresciuti del 31.000 unità, e anche questo è un dato inatteso, ci si attendeva un calo dei sussidi e invece sono aumentati, a significare che il problema occupazionale anche negli Stati Uniti resta tutto lì. Il super indice economico cresce ma meno delle stime, più 0,3%, praticamente, come ricordavamo anche ieri, stiamo tra virgolette celebrando, ricordando i 12 mesi passati. Un anno fa Barack Obama lanciava quel piano di salvataggio che era l'ennesimo piano dopo quelli lanciati nell'ultima coda dell'amministrazione Bush, da $780 miliardi, e ieri abbiamo ricordato quanto detto da Barack Obama, ossia che proprio quel piano permise di non entrare in una recessione, in una grande depressione. Però i dati americani sono ancora timidi o deludenti in alcuni casi. Tant'è che oggi è tornato sulla crisi Barack Obama e ha detto: il nostro compito non è ancora finito, e ha sottolineato che l'attenzione nel breve termine è tutta concentrata sul mercato del lavoro. La Grecia, allora, la Grecia non si esclude, dice il governo greco, non esclude un possibile ricorso al Fondo Monetario Internazionale nel caso che le trattative con Bruxelles non vadano nel modo giusto e la situazione peggiori ulteriormente. Va detto che fino a 2 settimane fa il governo greco di Papa Costantino, il ministro delle finanze, negava qualunque interesse, qualunque richiesta di aiuto al Fondo Monetario. Il Fondo Monetario, quando interviene, poi impone delle clausole durissime, ne sa qualcosa l'Argentina, molto contestate anche delle volte le clausole poste dal Fondo Monetario. Comunque, se fino a qualche settimana fa il governo greco negava, adesso dice potremmo chiedere aiuto al Fondo Monetario se le trattative con l'Europa andassero male. Nel frattempo in Germania il potentissimo sindacato di metalmeccanici tedesco, l'IG Metall, ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del lavoro. Riguarda solo il Nordrhein-Westfalia, quindi l'Ovest, ma verrà esteso anche alle altre 15 regioni tedesche. Praticamente interesserà 3 milioni e mezzo di lavoratori in Germania, un aumento previsto dal contratto del 2,7% in busta paga a partire dall'aprile del 2011. Oltre a un pagamento una tantum di €320. Le aziende si sono poi impegnate a garantire l'occupazione attraverso la possibilità di ridurre la settimana lavorativa, portandola dalle attuali 35 ore a 28 ore. Chiaro però che questa possibilità assomiglia più a un contratto di solidarietà, nel senso che se le ore da 35 scenderanno a 28 vi sarà una conseguente riduzione degli stipendi dei lavoratori interessati da questa misura. Oggi di Telefonica e Telecom Italia parla il Financial Times in edicola, dice appunto che i principali azionisti di Telecom Italia avrebbero iniziato a discutere tra di loro sul futuro della società, inclusa la possibilità di realizzare e far accettare dalla politica, dal governo italiano, una fusione con la spagnola Telefonica. Financial Times precisa che i colloqui però sono molto informali, del tutto preliminari. Vi sarebbero coinvolti, oltre a Telecom Italia, tutti i grandi azionisti del gruppo, quindi Mediobanca, Intesa San Paolo e Generali. A questo proposito, visto che citiamo il gruppo Intesa, vi ricordo che alle 18.05 avremo invece un'intervista con il nuovo direttore generale del gruppo Intesa San Paolo, Gaetano Miciche, per parlare di questo accordo, di questa operazione Sigma Tau, operazione coadiuvata e assistita dal gruppo Intesa, ma anche del rapporto banche-imprese, banche-piccole imprese, e anche della valutazione sulla Fiat. Gaetano Miciche ha come direttore generale tutta la responsabilità per il corporate, quindi per i rapporti con le aziende medio-grandi. Tra l'altro, sulla ipotesi di un ingresso in Telco, cioè nella società che controlla Telecom Italia, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, oggi il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, che è Franco Bassanini, ha detto è una invenzione che non si è mai prospettata e che giuridicamente non sarebbe nemmeno prospettabile. Queste le notizie in breve. Partiamo con il primo tema, il rapporto della Banca d'Italia sul Mezzogiorno e sulle politiche regionali, alla vigilia del convegno che si terrà domani a Bari, al Teatro Petruzzelli, per celebrare i 100 anni della Confindustria nazionale. La parte dedicata al Sud si svolge appunto a Bari. Il Sud aiuta il Sud. Il Sud aiuta il Sud vedrà la partecipazione, oltre che della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, anche del Ministro all'Interno Roberto Maroni, del Ministro per gli Affari Regionali Raffaele Fitto, dei segretari dei sindacati la UIL Luigi Angeletti e la CISL Raffaele Bonanni, del Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso, sto citando i nomi principali, e del Presidente della Regione Puglia Nicky Vendola, questo i nomi principali oltre a vari altri esponenti. Però il rapporto della Banca d'Italia oggi pone l'accento su un Sud che ancora ha non tanto difficoltà, ma non ricuce il divario. La Banca d'Italia dice: attenzione, in questi 10 anni è cresciuto in termini reali il PIL pro capite per abitante, è cresciuto a un ritmo, per quanto modesto, identico a quello del centro-nord, però il PIL per abitante è inferiore, è pari al 60% di quello che c'è nelle regioni del centro-nord. La crescita dell'occupazione è stata inferiore. Un quinto del lavoro è irregolare, lo dico anche a chi mi chiede. No, è così il dato. Un quinto è irregolare, attenzione. E poi sono tornati a intensificarsi i flussi migratori dal mezzogiorno al nord, soprattutto per i giovani con un alto livello di scolarizzazione e di preparazione. Questa non è una bella notizia, che si va a impoverire anche intellettualmente il mezzogiorno. Comunque, i contratti integrativi al sud firmati dalle aziende sono più leggeri di fino al 9% rispetto a quelli del centro-nord, e qui insomma possiamo anche ragionare, visto il costo della vita. E poi, dice la Banca d'Italia, la criminalità crea un'alterazione del mercato e crea soprattutto sfiducia. Dato appunto che per alcuni versi già conoscevamo, tra l'altro sempre oggi si è saputo che l'Italia deve raddoppiare nel 2010 il ritmo di spesa nell'utilizzo dei finanziamenti che arrivano al Fondo Regionale Europeo, se non vuole perderli. Questa è l'altra vicenda paradossale: non riusciamo a spendere i soldi che il Fondo Regionale Europeo dà anche all'Italia, nel caso specifico al nostro mezzogiorno. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento Cristiana Coppola, che è vicepresidente della Confindustria con delega proprio al mezzogiorno ed è insomma la grande organizzatrice del convegno di domani. Buonasera, dottoressa. Buonasera a lei. Poi arriveremo ai temi del Sud aiuta al Sud, ma insomma la Banca d'Italia fotografa una situazione che si è tutto tranne che modificata. Con dei dati che ho appena ricordato, qual è quello che l'ha impressionata di più, visto che lei il Sud lo conosce bene, ci opera, ci lavora, lo segue, lancia anche appunto stimoli e convegni? Di questi dati qual è quello che non si aspettava o che non avrebbe voluto vedere? No, diciamo quello che non avrei voluto vedere è il dato del lavoro sommerso e del lavoro irregolare, 1 su 5, e ovviamente questo anche si spiega anche con diciamo una situazione di crisi che morde molto molto al sud, e quindi questo è una prima, come dire, conseguenza di questo. Sul divario, i dati che la Banca d'Italia ha presentato sono più o meno diciamo quelli che noi dalle nostre analisi conoscevamo già. Il divario è sostanzialmente fermo. C'è stato agli inizi degli anni 2000 un percorso diciamo di restringimento, ma si è praticamente annullato, e quindi paradossalmente questo è lo stesso divario, lo stesso dato di 50 anni fa, quindi la situazione non è cambiata, anzi forse è peggiore ulteriormente. Quindi diciamo ovviamente c'è da porci il a che cosa sono serviti tutte le risorse europee della scorsa programmazione 2000-2006. Parliamo di risorse ingenti, proprio lei si riferiva anche alla nuova programmazione 2007-2013 che procede molto molto lentamente, e credo che poi è quello che è un dato importante che veniva sottolineato dalla Banca d'Italia, è la qualità dei servizi pubblici. Credo che siano aspetti molto correlati, cioè lo sviluppo economico e il contesto amministrativo del Mezzogiorno credo che siano, come dire, la faccia di diciamo, se siano molto collegati fra di loro. Quindi la bassa crescita economica è dovuta anche a un contesto amministrativo molto, molto difficile. Restiamo su questo, dottoressa Coppola, perché da un lato concludo anche l'agenzia, dice infatti Bruxelles che per quello che riguarda il centro-nord, le aree che registrano ritardi nell'utilizzare il fondo regionale europeo sono il Friuli, Venezia Giulia e il Molise. Nelle regioni del Mezzogiorno, invece, Bruxelles sottolinea che la performance della Calabria e soprattutto la preoccupazione per la situazione della Sicilia, dove, dice Bruxelles, l'avvicinamento a livello politico e amministrativo a livello regionale ha comportato un rallentamento nell'attuazione del suo programma operativo. Torneremo su questa cosa perché è incredibile che non si riescano a spendere i soldi che l'Europa ci dà e che, come sappiamo tutti, se non vengono spesi vengono ridistribuiti a altre regioni e quindi altre regioni europee, e quindi con un ulteriore danno. Cioè, c'è un'espressione proprio meridionale che dice cornuto e mazziato, no? In quel caso, mi passi il termine. Allora, domani voi parlerete del sud che aiuta il sud. Già dal titolo sembra una tesi che va a dire basta con le casse del mezzogiorno, con gli aiuti straordinari. Certo che i fondi europei vanno dati anche al nostro mezzogiorno, ma il sud può aiutare il sud in che modo, dottoressa Coppola? Ma proprio, ecco, mettendo al centro l'efficienza della pubblica amministrazione da un lato e il problema della criminalità, che in alcune regioni del Mezzogiorno è un fenomeno molto pervasivo e come dire, frena e blocca lo sviluppo. Credo che sia partire da noi vuol dire anche, come dire, avere maggiore responsabilità, essere coscienti che voglio dire, non possono esserci aiuti che arrivano dall'alto se poi noi non risolviamo quelle che sono le difficoltà dei nostri contesti. Lei prima citava il dato allarmante che non riusciamo a spendere, però le voglio dire che la scorsa programmazione 2000-2006 si è caratterizzata per questo. Sono state spese risorse, non sono state perse, ma perché sono andate su progetti, diciamo, di manutenzione ordinaria, su progetti che vengono chiamati progetti sponda, progetti coerenti, cioè non su una miriade di priorità con una frammentazione enorme. Ovviamente tutto questo come dire, va anche su terreni di clientelismo e quant'altro, quindi non le amministrazioni locali, meridionali, in parte anche la nazionale, ma diciamo soprattutto le amministrazioni locali meridionali non hanno saputo come dire, concentrare le risorse su obiettivi diciamo prioritari, per esempio le infrastrutture. Sì, questo quindi è abbastanza incredibile. Poi anche lo sviluppo, oggi si apre la BIT a Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, ne parleremo nei giorni prossimi, ma insomma ci sono dei casi in cui le infrastrutture, dottoressa Coppola, sono fondamentali e mancano, ma altri casi in cui manca anche un po' di così di pepe, perché cito il caso di, non so, della Calabria, Vibo Valentia, mare bellissimo, collegamenti con le isole Eolie, aeroporto a 30 minuti, la Salerno-Reggio Calabria che ha tra i corsie in quel tratto, si vede un pacchetto turistico che fosse uno low cost per la clientela del nord, voglio dire, no? Poi magari uno prende l'aereo e va a Sharm el Sheikh quando abbiamo delle cose genere. Lì manca, se possiamo dire, anche un po' di voglia di intraprendere. Ma di voglia di intraprendere e forse anche cultura di impresa. E per questo, diciamo, domani la nostra riflessione parte soprattutto da noi stessi, no? Che cosa noi come imprenditori dobbiamo e possiamo fare, anche un cambio culturale, diciamo, in un certo senso quello di dire non aspettiamo l'incentivo pubblico, perché in qualche modo è stato dimostrato, la stessa Banca d'Italia, ma numerosi studi hanno dimostrato che gli incentivi poi non favoriscono gli investimenti. Allora dobbiamo creare un contesto diciamo accettabile e al pari di altre aree del paese, però poi spetta alle forze locali come dire intraprendere, e ovviamente c'è anche, come dire, nel settore turistico un percorso da fare nella cultura dell'accoglienza, ed è per questo il nostro messaggio è proprio rivolto a noi stessi, cioè noi dobbiamo in qualche modo cambiare e partire da noi. Sì, devo dire che molti ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666 sembrano averlo capito e lo riassumono nel motto aiutati che poi Dio ti aiuta, cioè parti tu per primo. Va detto però, e qui lo dico io non per una difesa d'ufficio del Mezzogiorno, ma va detto che è fondamentale che si muovano anche gli stessi imprenditori, che si diano una mossa, che non aspettino sempre le iniziative di Bruxelles, di Roma o quant'altro, e che non si trovi sempre la scusa per non fare, no? Noi siamo un paese abituato a tutto, ma anche Mezzogiorno abituato a trovare delle scuse per non fare perché mancano le infrastrutture. Delle volte, dottoressa, le infrastrutture diventano quasi un alibi. Ho citato un caso concreto, attendo risposte dagli amministratori di Vibo Valentia e Lamezia Terme, però va detto che una volta che i vostri imprenditori si muoveranno, avranno il pepe per intraprendere, occorre che da un lato sia garantita una soglia accettabile di legalità, nessuno immagina il sud trasformato in una specie di Svezia, e dall'altro una soglia anche qui accettabile nell'efficienza della pubblica amministrazione. Sì, sì, è quello che chiediamo, cioè chiediamo a noi stessi, chiediamo alle amministrazioni locali. Qui non è una richiesta, come dire, a Roma, ma è una richiesta proprio al territorio di essere efficienti, perché effettivamente c'è un gap dal punto di vista dei servizi pubblici. Basti pensare, citare la vicenda dei rifiuti in Campania per avere, come dire, una visione, no, di quello che può essere e del danno che questo ha creato anche alle aziende, anche solo quelle turistiche di quella regione. Il punto è avere situazioni accettabili, vedere di andare nella direzione giusta, di fare qualche piccolo progresso. Ovviamente sta a noi però fare la nostra parte. Però siamo anche convinti che ci sono molte energie che oggi nel Mezzogiorno sono bloccate proprio perché c'è un meccanismo che blocca la società, c'è un interventismo pubblico molto forte e quindi questo blocca le energie migliori. Posso dire una cosa? Anche votando poi gli amministratori più bravi, cioè nel senso che questo non vuole essere nessun tipo di invito al voto, ci sono le regionali, uno valuta l'amministratore che ben si è comportato, lasciamo anche stare i colori, chi se ne frega, insomma, se uno ha ben lavorato va premiato, se ha mai lavorato non rifugiamo sempre nelle clientele. Devo dire che insomma nel nord probabilmente il rapporto tra tipo di amministrazione e voto che becchi è un po' più stretto, non voglio dire che sia necessariamente perfetto, ma un po' più stretto. Simone Cimino, presidente del gruppo Cape Nactis, buonasera. Buonasera a voi. Con lei parleremo di Termini Imerese, perché voi avete oggi presentato il vostro progetto per creare lo stabilimento di auto elettrica al posto di Termini Imerese assieme all'Indiana, al gruppo indiano. Però ha sentito la vicepresidente di Confindustria Cristiana Coppola. Lei è emigrato tra l'altro dalla Sicilia a Milano tempo fa, no? Sì, 30 anni fa. Però sono tornato poi a investire dal 2001 creando 440 posti di lavoro con 85 milioni di giro d'affari in 5 province, ho un ufficio a Palermo con 7 persone, come ce l'ho a Bangalore, come ce l'ho a Shanghai, quindi sono tornato a investire. Ma lei qualche movimento in positivo l'ha visto? Poi parliamo di Fiat e di Termini Imerese. Sicuramente da quando io ero studente e vidi chiudere la Monteso negli anni 70 per la crisi petrolifera a quello che è accaduto dopo la primavera del 92, eccetera, c'è cioè un cambio nelle coscienze, nelle nuove generazioni inimmaginabile. E dottoressa Coppola, visto che lei è donna, è imprenditrice e fa un convegno, organizza un convegno in cui non c'è una richiesta di non essere abbandonati, ma c'è un invito a rimboccarsi le maniche, il Sud aiuta il Sud, la preoccupa il dato, immagino di sì, questo 9% di giovani meridionali laureati che, scusi, questo nuovo flusso di giovani meridionali laureati che la Banca d'Italia ha registrato, però in totale onestà come si fa a dargli torto delle volte? No, ma guardi, è normale che i ragazzi vadano via perché i ragazzi cercano opportunità e se le opportunità di lavoro non ci sono è normalissimo che vadano via. La nostra responsabilità deve essere proprio quella di creare le condizioni, non solo per attrarre questi ragazzi meridionali, ma anche per attrarne altri. Il punto non è tanto quelli che vanno via, ma sono quelli che non vengono. Domani vedremo di affrontare anche questo. Grazie, e soprattutto a me piace questo invito proprio a dire aiutiamoci, non facciamoci aiutare. Grazie a Cristiana Coppola, in bocca al lupo per il convegno di domani, il Sud aiuta il Sud, a Bari dalle 14.30. Focus Economia sarà in diretta proprio da lì, come sempre facciamo in queste occasioni. Ricordavo la presenza, oltre che Ministro degli Interni, della Presidente di Confindustria Marcegaglia, dei sindacati, del Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso. Grazie a Cristiana Coppola. Ancora vedo molti messaggi su questo, sul parallelo. Ah, addirittura qualcuno mi critica perché ho detto Niki Vendola e non Nicola. Nicola Vendola, ci mancherebbe, non penso, conoscendolo, che si formalizzerebbe moltissimo. Comunque, Simone Cimino, prima del metodo della pubblicità, mi dice oggi che cosa avete presentato, perché il governo ha detto che ci sono 10-12 progetti su Termini Imerese, voi siete uno di questi, l'abbiamo avuto ospite fin dall'inizio, il progetto Sunny Car, e Sunny Car in a Sunny Region, una macchina solare in una regione solare, me lo dice in siciliano? Secondo me che mi viene un po' da ridere, anche perché non capirebbero in molti. Vabbè. Ci vorrebbe Camilleri per farlo in un siciliano più leggibile. Vabbè, però il nostro tecnico di regia è siciliano, quindi me lo faccio tradurre da lui dopo il metro pubblicità. Mi dice solo cosa avete presentato oggi? Abbiamo presentato il progetto nei dettagli, abbiamo costituito 2 giorni fa le 3 società che avranno 20 milioni di euro iniziali soltanto di capitale per la ricerca. Partiamo in aprile già con i nostri piani di ricerca, perché ci sono alcuni bandi pubblici di ricerca e sviluppo per energie rinnovabili che scadono ai primi di aprile, quindi o si parte o si perdono queste occasioni, e rimaniamo in lizza e crediamo anche con buone chance di essere nella shortlist col Ministero, saremo addirittura a Bruxelles settimana prossima dal Commissario Tajani, se crediamo che al di là del nostro progetto, che ci auguriamo venga selezionato tra i tanti progetti, sta prendendo corpo sempre più l'idea di un hub di mobilità elettrica di auto, e non solo in Sicilia, all'interno del scelto Comunità Europea. Se questa è la direttrice, noi più altri potremo, secondo me, dare una risposta seria. Allora, vediamo i dettagli dopo, anche perché alcuni ascoltatori paventano, temono che sia molto fumo, che si parli di solare per poi in realtà così qualcosa di glamour, ma che poi non tenga dal punto di vista produttivo e occupazionale. Dopo il metro della pubblicità, 349-238-6666 per gli sms. ...17:40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento sul progetto di Cimino e anche sui dubbi che alcuni di voi avanzano, e poi parlare di borsa. La chiusura è leggermente in rialzo, più 0,1%, deboli bancari, molto meglio invece altri titoli, quali per esempio Telecom Italia più 2,3%, Mediolanum più 2,2%, Steam Electronics più 1,80%. Allora, Cimino, na magina cusule na terra d'usule, questa è la traduzione che noi abbiamo realizzato con il nostro tecnico di regia, che è palermitano. Anche perché magari invece che chiamarla Sunny Car in a Sunny Region, forse parliamo... Beh, i due progetti più importanti al mondo sulla mobilità elettrica si chiamano Build Your Future, Build Your Dream e Better Place, quindi sono okay. Uno cinese e uno israelo. Sì, ma adesso però vengono le domande serie. Allora, voi avete questo progetto di produrre auto elettriche in Sicilia, tra l'altro produrre anche, se ricordo male, i distributori per caricarle, no? Realizzare la rete di distributori, però... Le obiezioni che vedo al 349-238-6666 sono di due tipi. A, la Reva, con cui voi fareste l'accordo, ha venduto pochissime auto in Europa, 5.000, mi scrive un ex responsabile del concessionario Reva, e molti avanzano dubbi sul fatto che possa essere veramente una vostra partner. Secondo aspetto, la tenuta occupazionale, cioè bisogna essere molto seri, perché stiamo parlando di 1.200 lavoratori di Termini Imerese. Alcuni sono vicini alla pensione, vabbè, però c'è poi l'indotto, quindi non si può, diciamo, semplicemente giocare e dire beh, mettiamola a fare le auto elettriche lì. Occorre che tutta la struttura, l'indotto, venga quantomeno mantenuto. Cimino. Negli Stati Uniti d'America, 2 settimane fa, è stato fatto un filing di IPO di una società che si chiama Tesla, e ha fatto 930 auto in 6 anni, perdiamo 240 milioni di dollari. Se uno non si rende conto che oggi l'auto elettrica è ancora un progetto di sviluppo, e le previsioni di McKinsey, Boston Consulting Group, Frost & Sullivan danno nel 2020 il 38% delle auto nel mondo occidentale, tutto non una combustione interna, ma non è oggi, accade nei prossimi 7-8 anni. Se non si parte da lì, non si rende conto che ormai non possiamo più andare avanti a concepire auto soltanto a combustione interna. Ma non lo dico io. No, ma sul futuro dell'auto siamo d'accordo. Io voglio capire però concretamente, la Fiat nel 2011 se ne va da Termini Imerese. Voi che cosa offrite, dove trovate i soldi? Abbiamo costituito tre società, sì. Mettiamo 20 milioni di euro soltanto per la fase di ricerca e sviluppo di seed capital entro quest'anno, già deliberati due giorni fa in un dannotaio a Termini Imerese. Da aprile iniziamo a fare tre domande per quanto riguarda ricerca e sviluppo, che sono fondi ministeriali riguardanti del Ministero dell'Università, il MIUR, che riguardano l'innovazione sulle batterie e sui sistemi di accumulazione. In parallelo a questo stiamo lottando, siamo sotto analisi di Invitale per quanto attiene all'eventuale reimpiego di persone ex Fiat nel 2012 e all'interno di questo progetto ci sono state tre iniziative: sistemi di ricarica, infrastruttura di ricarica e auto, hanno due o tre piani temporali di sviluppo secondo i mezzi che mettiamo noi e che mettono i terzi, siano esse le banche o siano esse appunto in questo caso i vari organi europei e nazionali preposti, per facilitare questo tipo di innovazione e ricerca. Di questo si tratta. Allora, io vorrei capire una cosa, Cimino. Siccome Scajola, il ministro Scajola, ieri ha detto sono 14 le proposte per Termini Imerese, ha chiesto anche che ne arrivino molte dall'estero e ha detto faremo una short list, una lista ristretta in cui però privilegeremo i progetti dell'automotive, cioè delle quattro ruote. Quindi voi da questo punto di vista siete anche messi bene. Mi deve dire quanto vi costa e quanto costa l'operazione, cioè di quanti soldi avrete bisogno oltre ai vostri, certo. E a che livello di occupazione pensate di arrivare? Allora, a livello di occupazione sono, per quanto riguarda la rete di infrastruttura di ricarica solare, sono 2.000 posti di lavoro, l'investimento complessivo è 400 milioni di euro, di cui 350 tutti finanziati con project financing bancario, quindi senza mezzi pubblici, perché si finanzia col conto energia, come quando lei fa una pala eolica o un impianto fotovoltaico. Certo. Quindi grazie alle provvidenze di assistenti per la produzione di energie rinnovabili si costruisce la rete e sarebbe tra l'altro uno dei più alti ritorni occupazionali rispetto all'ammontare dell'investimento. Per 10 megawatt lei riesce a fare praticamente qualcosa come 2.000 posti di lavoro. Questo riguarda la rete di ricarica. 140 milioni di euro invece andranno nei sistemi di ricarica, cioè la concessione di veloce captazione di energia e veloce alimentazione delle auto. Questo è un progetto che richiede 40 milioni di mezzi propri, il resto sono mezzi previsti da appunto bandi pubblici su ricerca e innovazione per quanto riguarda appunto le rinnovabili, che non toccano i Termini Imerese dal punto di vista delle somme messe da parte dal governo regione. L'ultimo capitolo, che è quasi importante, cioè le 1.000 persone che pensiamo di assumere invece sulla parte auto, mentre 500 sono nella parte sistemi, per la parte auto è evidente che se una parte delle risorse che pensano il ministro Scajola e il governo regionale siciliano saranno, diciamo, devolute anche al nostro progetto, abbiamo due moduli: un modulo a 200 milioni di euro che farebbe 30.000 auto e richiederebbe 150 milioni di intervento pubblico e 50 milioni di capitale privato nostro, e un modulo invece che è doppio, con 100 milioni nostri e 300 di danno pubblico. Per cui praticamente se il nostro progetto rientrasse tra quelli selezionati in shortlist per la riconversione dei occupati Termini Imerese, potrebbe avere due tipi di gradienti di dimensione, uno a 30.000 auto e uno a 60.000 auto. Quindi potrebbe essere uno dei tre, uno dei quattro, uno dei cinque, a beneficiare di finanziamenti o di fondo perduto per la riassunzione di persone in un progetto di lungo periodo, cioè fare auto del domani. Mm-hmm. No, questo è chiaro. Io ho fatto un calcolo, voi in tutto avrete bisogno sui 600 milioni di euro, però distinguendo tra i 2.000 occupati, perché voi prevedete di avere i distributori, come si chiamerebbero adesso, le pompe di benzina e pompe di auto elettrica, e invece la parte su Termini Imerese riguarda l'ultimo aspetto che le diceva, 1.000 occupati con due possibilità quanto a soldi. In bocca al lupo, Cimino, come a tutti gli altri che parteciperanno alla gara, ma soprattutto in bocca al lupo ai dipendenti dello stabilimento Fiat di Termini Imerese. Allora, sì, chiedo scusa per la qualità, alcuni ascoltatori si lamentano del collegamento, purtroppo era molto disturbato, mi rendo conto, ma tanto torneremo a parlare anche con lui. Adesso però le informazioni sul traffico, poi la borsa eterna. Di nuovo in diretta per parlare adesso di borsa. Una sola precisazione: alcuni di voi scrivono in merito al progetto dell'auto elettrica da prodursi a sud, ma a Termini Imerese. Ma chi se le compra se quelli sono i redditi pro capite nel mezzogiorno? Forse non ci siamo capiti. Un'auto la puoi produrre in Sicilia e vendere in Veneto, ma ci mancherebbe. Il problema è capire se c'è il partner indiano, se vuole investire, di quanti soldi ha bisogno, quant'è l'occupazione. Secondo me l'unica cosa su cui sono abbastanza d'accordo con Cimino, il resto è tutto da vedere, è che il mercato sull'auto elettrica c'è, ci sarà sempre di più in prospettiva. Comunque, Leonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, più 0,1% oggi Milano, meglio Francoforte, più 0,6% come Parigi, Londra più 0,91%, l'America più 0,2% in questo momento, euro a quota 1,35,7. Pochi gli spunti oggi. Devo dire che tra i peggiori Fondiaria Assai meno 2,80%, il Banco Popolare meno 2%, oggi deboli un po' tutte le banche, Ansaldo meno 1,70%, Monte dei Paschi meno 1,5%, Fiat meno 1,3%, Popolare Milano meno 1,2%, Unicredit perde l'1%, Comexor, Lottomatica meno 1%, Intesa meno 0,90%, e Finmeccanica meno 0,6 come Impregilo e Pirelli. Tra chi ha guadagnato invece: Telecom più 2,3, Bulgari più 2,3, Mediolanum più 2,2. Qui però su Mediolanum ancora giocano i risultati dello scudo fiscale e il fatto che proprio gli intermediari come Mediolanum abbiano beccato la fetta più grossa dei capitali che sono rientrati e sono stati condonati. Estima Microelectronics più 1,80, Autogrill più 1,6, Parmalat più 1,4 come Tenanis, 1,2 Saipem, Geox 1%, Mediaset e Prismian, ma anche Eni, CIR più 0,80 come Enel, Mondadori e Luxottica. Telecom. Sì, Telecom oggi si è mossa molto bene, più 2,3, accelerato sul finale e diciamo che continua a, innanzitutto beneficia del fatto che la prossima settimana, esattamente giovedì prossimo, il consiglio d'amministrazione della società si riunirà per l'approvazione dei conti di bilancio 2009 e quindi il giorno successivo i vertici dell'azienda di telefonia incontreranno la comunità finanziaria per esporre non solo i conti del 2009 ma anche le linee guida del piano industriale, che ovviamente è molto atteso. E da qui a una settimana quindi anche gli stessi analisti sostengono che i titoli potrebbero beneficiare di questo conto alla rovescia che è scattato. Detto questo, ancora continua la speculazione. Oggi il Financial Times ha rilanciato l'ipotesi che si stia parlando, anche se per adesso a livello solo preliminare, tra i soci di Telco per un'eventuale operazione di fusione tra Telecom Italia e Telefonica. E nel pomeriggio inoltre Bassanini, il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, ha escluso innanzitutto l'eventuale ingresso di Cassa Depositi e Prestiti in Telco, la scatola che controlla il 22,5% di Telecom Italia. Però ha detto invece che la stessa Cassa Depositi e Prestiti potrebbe eventualmente valutare l'investimento nella rete di Telecom Italia, un progetto di cui si parla da tempo, anche se ha detto Bassanini per adesso non è stato presentato assolutamente alcun progetto per cui la valutazione è impossibile. Comunque, oltre che Bassanini, diciamo soprattutto il Financial Times, che si è accorto anche lui che i soci, di tutti i soci, cioè quindi Telecom, ma anche Mediobanca, Intesa, stanno parlando per capire cosa succederà nel futuro e quindi se gli spagnoli se la compreranno tutta, quale sarà la trattativa col governo italiano. Devo dire, in una battuta, pochi sono gli spunti oggi. Oggi sono stati bene i conti di Hewlett Packard, HP, e quindi ST Microelectronics ne ha risentito positivamente, così come su Mediaset ci sono buone dato era buono, era meglio durante la seduta perché ci sono buone attese sulla raccolta pubblicitaria. Se mi dai in una battuta, perché siamo molto stretti, Fiat oggi male tutto il settore auto, lì è la Daimler che ha affossato il mercato? Sì, effetto Daimler. I conti di Daimler sono risultati in rosso, soprattutto quelli del terzo trimestre. Gli analisti si aspettavano invece che comunque Daimler riuscisse a chiudere in utile. Questo ha trascinato in basso tutto il settore auto, meno 2% il sottoindice di settore, la peggior performance in Europa. Daimler ha perso circa il 5%. Ovviamente anche Fiat ne ha sofferto. Sebbene proprio oggi, tra l'altro, sia uscito invece un report molto positivo di non credizio. Li voglio i report, no, i report no, grazie Leonora, ma sai che abbiamo fatto una linea del rigore, non sentiamo, non ascoltiamo più i report, me la metti in fondo. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore. Noi restiamo in tema di finanza, ma in questo caso di un titolo quotato come Terna, ossia la società che gestisce il 98% della rete elettrica italiana. Oggi ha presentato il piano industriale per i prossimi 4 anni, 4 miliardi e 300 milioni di investimenti. Allora chiediamo subito al numero uno di Terna, l'amministratore delegato Flavio Cattaneo, buonasera, che cosa vi serviranno questi 4 miliardi e 300 milioni di investimenti, che sono praticamente 900 milioni, Cattaneo, più del piano precedente? Serviranno a potenziare la rete in Italia, nel decennio abbiamo alzato a quasi 7 miliardi di investimenti, per cui diciamo questi 4 miliardi e 3 risolveranno molti problemi di congestione della rete, gli allacciamenti delle rinnovabili, le interconnessioni anche con l'estero che favoriranno diciamo il sistema elettrico, ma una cosa importante è anche diminuiranno i costi in bolletta per gli utenti finali. Ecco, si può essere ancora più dettagliati su dove verranno utilizzati questi 4 miliardi e 3, che sono una cifra imponente, soprattutto per i progetti, come si può dire, già cantierabili o cantierabili a breve? Allora, diciamo il cavo con la Sardegna ormai è finito, diciamo che si inaugurerà a breve e quindi abbiamo risolto negli anni scorsi il problema della Sardegna. Incominceremo con il cavo di collegamento, il doppio cavo con la Sicilia e quindi in questo piano industriale si andrà a risolvere tutto il problema delle due isole, anche qui un investimento di 700 milioni. Dopodiché sono previste alcune opere importanti come la Dolo-Comin, la Trino-Lacarella e altri importanti spezzoni che andranno a sbottigliare parte della rete. Un altro importante investimento per circa 700 milioni è il cavo di collegamento con il Montenegro. La cosa importante è che in termini occupazionali e in termini di lavoro questo piano prevede ulteriore lavoro per circa 200 imprese e 10.000 persone che troveranno lavoro attraverso questo nuovo piano di investimenti di Terna. Questi 4 miliardi e 300 milioni, mi scusi dottor Cattaneo, questi soldi dove li troverete? Perché insomma, aumento di capitale, emetterete obbligazioni o bond, come si chiamano in gergo? Noi emetteremo dei bond nel mercato istituzionale a copertura del debito, abbiamo venduto il Brasile come è noto l'anno scorso, ricavando complessivamente fra debito e gain 1.200 miliardi, abbiamo possibilità di ulteriore leverage e quindi diciamo la dismissione poi del fotovoltaico una volta realizzato, quindi la copertura finanziaria c'è per tutto il piano. Quindi un'emissione di obbligazioni sul mercato, appunto. Per quello che riguarda invece la crescita dei ricavi, l'ultima domanda che per lei, dottor Cattaneo? Certo, porterà una crescita dei ricavi a fine diciamo piano, una crescita circa del 5-6% annuo media. È importante sottolineare che la redditività passa attraverso una riduzione dei costi e un miglioramento del sistema complessivo del paese. Mi dica solo un'ultima cosa, ma le centrali nucleari che quando diventeranno una parte operativa, voi avete già in mente un modo per allacciarsi alle centrali nucleari appunto quando poi saranno stabiliti anche i siti? Per il nucleare, come diciamo gentilmente mi ha chiesto, noi non l'abbiamo ancora incluso, ma perché al momento non si conoscono i siti. Sicuramente le autorizzazioni nucleari andranno pari passo con la rete in modo da essere pronti per quando inizierà a produrre questo nuovo mix energetico, questa nuova generazione, essere pronti anche per la rete in grado di assorbire l'energia generata. Grazie a Flavio Cattaneo, amministratore delegato del gruppo Terna, IGR, e poi con l'intervista con il nuovo direttore generale del gruppo Intesa San Paolo, Gianfranco Micciche. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Oggi parleremo, in questa seconda parte, di rapporto banca-impresa, ma non solo, anche perché abbiamo fatto un'intervista con il neo direttore generale appunto del gruppo Intesa San Paolo, Gaetano Miccichè, responsabile di tutta la divisione corporate, quindi le aziende medie e medio grandi e grandi, per quello che riguarda il credito tradizionale, ma anche le piccole e medie imprese per quello che riguarda il cosiddetto private equity, cioè quando si entra con dei soldi nel capitale di una società, e anche il merchant banking. Siamo partiti però con Gaetano Miccichè, dalla neo appunto direttore generale, dall'annuncio che Sigma Tau apre intanto l'ipotesi di quotarsi in borsa, ma sbarca definitivamente negli Stati Uniti incassando via libera degli azionisti della Enzone, società quotata al Nasdaq. Tra l'altro in questo aiutata con un forte ruolo da parte del gruppo Intesa San Paolo, perché l'acquisizione sarà finanziata al 70% con un prestito concesso proprio dal gruppo Intesa San Paolo, già azionista di Sigma Tau al 5%. E allora su questo ruolo, la prima domanda che abbiamo fatto a Gaetano Miccichè. Sigma Tau è una delle operazioni che più ci riempie di orgoglio come Intesa San Paolo. Abbiamo deciso nel 2006 di seguire le iniziative e i progetti imprenditoriali della famiglia Gavazza, che sono i principali azionisti di Sigma Tau, accettando quelli che erano i progetti di un grande gruppo farmaceutico italiano con grande rilievo anche internazionale. Sigma Tau è un brand tra i più noti nel campo proprio della farmaceutica mondiale, con un fatturato rilevante intorno ai 600 milioni di euro, un'azienda strutturata per crescere, per svilupparsi e oltretutto svilupparsi in un settore dove la ricerca è fondamentale. Sigma Tau investe tanto in ricerca, e ricerca in questo settore vuol dire miglioramento della qualità di vita per tutti i cittadini. Il ruolo del gruppo Intesa San Paolo in questa operazione nel dettaglio è stato anche di consulenza, oltre che diciamo di disponibilità del plafond finanziario? Il nostro modo di partecipare all'equity delle imprese è quello non solo di mettere del denaro dentro l'azienda, sempre con partecipazione di minoranza, ma di formare, direi, o comunque di rafforzare la cultura di corporate governance, cioè far sì che le aziende possano sempre più diventare aziende pronte ad aprirsi al mercato. Sigma Tau già lo era, però subito dopo il nostro ingresso è anche cambiato il top management. I risultati ci stanno dando ragione. Restiamo sul tema delle acquisizioni, delle fusioni, poi arriveremo a un tema a cui noi siamo molto sensibili, ma non penso solo noi, cioè il rapporto banca-impresa, perché i problemi si sono tutto tranne che risolti. Però sul fronte acquisizioni e fusioni, dottor Miccichè, lei ebbe a dire, se non ricordo male, ancora un anno fa, o quasi un anno fa, ai nostri microfoni, che sarebbe stato un 2009-2010 in cui si sarebbero viste meno operazioni a debito, cioè gruppi che prendono soldi in prestito, diciamo, dalle banche per effettuare operazioni di acquisizione o di fusione, e che anche in borsa le holding finanziarie, cioè le teste finanziarie dei gruppi poi operativi, si sarebbero ridotti quanto a quotazione, cioè avrebbe avuto minor senso avere questo tipo di titoli quotati. A distanza di un anno è ancora convinto di questo scenario? È ancora convinto che le operazioni di fusione e acquisizione, non sto pensando solo a Telecom, ma penso in generale a tutti i vari soggetti o possibili obiettivi di cui abbiamo letto in questi mesi, restino difficili da compiersi a debito come avveniva una volta? Direi di sì, perché il 2009 è stato un anno di grande crisi dell'economia mondiale, e non solo vuol dire performance economiche e finanziarie nettamente inferiori a quelle degli anni passati, ma vuol dire anche incertezze sul futuro. Quando le aziende possono avere un debito rilevante, quando hanno delle proiezioni economiche, finanziarie future che fanno sì di pensare che questi debiti possono essere ampiamente ripagati attraverso i flussi derivanti dall'attività caratteristica dell'azienda. Quando questi flussi sono incerti, perché i prodotti interni lordo si riducono, i consumi si riducono, i fatturati si riducono, non è possibile prevedere progetti industriali che non facciano particolarmente riferimento invece a un maggior ricorso all'equity e quindi ai mezzi propri rispetto al debito. Quindi io sono convinto che ancora nel 2010 noi avremo, poi è un fatto positivo, perché è un fatto che fa sì che le aziende possano essere meno appesantite, diciamo, da livelli di debito talvolta impropri come sono stati nel passato. Per quanto riguarda la riduzione delle holding finanziarie, io continuo ad auspicarlo. Io sono sempre dell'opinione che in borsa è auspicabile che vi siano aziende industriali e quindi gli investitori investano in business chiari, definiti, singoli, dai quali possono aspettarsi ritorni in funzione delle valutazioni che ciascuno di loro può fare sull'andamento di quel business, sullo scenario che quel settore presenta. Invece investire nelle holding vuol dire talvolta investire in molteplici aree di attività senza capire bene l'eventuale profitto o l'eventuale perdita da quale area derivi. Questa è la prima parte della nostra intervista a Gaetano Micicchè. Chiaramente lo dico chi scrive al 349-238-6666, ci siamo occupati anche e soprattutto del rapporto banche-imprese, banche e piccole imprese e della situazione della Fiat. E dopo le informazioni sul traffico, 349-238-6666 per gli sms. Ultima parte di Focus Economia con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Allora continua l'intervista con il direttore, neo direttore generale di Banca Intesa San Paolo, Gaetano Micicchè. Il rapporto con le imprese, soprattutto quando piccole e medie, il gruppo Intesa ha rifinanziato un plafond da 5 miliardi, ha un accordo per 3 miliardi con la Confcommercio e altri 300 milioni per esempio di accordo con l'Unione Industriale di Roma. Però insomma tante le segnalazioni che riceviamo dagli imprenditori di difficoltà quando sono piccoli, quando sono artigiani, a ottenere prestiti dalle imprese, e abbiamo girato queste difficoltà a Gaetano Micicchè. Lo scorso venerdì, non l'ultimo ma il penultimo, Corrado Passera, il nostro amministratore delegato, ha chiuso il 90° incontro dell'anno, iniziato all'inizio del 2009, con tutte le associazioni imprenditoriali delle medie e piccole imprese del nostro paese. Abbiamo battuto l'Italia provincia per provincia per andare a spiegare alle medie e piccole imprese cosa Intesa San Paolo era disponibile a mettere a disposizione concretamente per far sì che le aziende che stavano vivendo un momento di difficoltà economico potessero superarlo in maniera più agevole o meno complessa possibile. Un secondo fatto è che però noi stiamo vivendo una situazione complessa da un punto di vista economico, quindi le aziende perdono fatturato, peggiorano le loro performance economiche, appesantiscono le strutture finanziarie. Le aziende piccole devono cercare di essere meno piccole e quindi di trovare forme di sopravvivenza attraverso delle aggregazioni, quindi trovando delle dimensioni tali che consentono a una banca di poter intervenire. Io ricordo sempre che il fatturato di una banca sono gli impieghi, i crediti che noi diamo alla nostra clientela. Quindi il nostro sogno nel cassetto è dare più credito possibile, proprio perché noi gestiamo in grande parte denaro dei nostri risparmiatori. Noi dobbiamo far sì che i denari che prestiamo alle aziende ci vengano restituiti. Il 2009 ha rappresentato il picco nel campo delle insolvenze e delle sofferenze del sistema bancario, proprio perché questa crisi economica ha rappresentato anche un incremento rilevante della possibilità che le imprese restituiscono il denaro. Il trade-off fra volere dare più credito, tra aiutare le aziende a farcela e comunque tentare di non appesantire i bilanci delle banche con insolvenze, è il lavoro che stiamo tentando di fare al meglio per non scontentare nessuno. Assolutamente d'accordo che insomma, impiegare i soldi dei risparmiatori significa avere anche prudenza e gestione oculata. Questo, parlo del sistema bancario, vale anche però quando si fa operazioni di trading. Cioè, noi abbiamo visto delle banche, il sistema bancario, prendersi dei rischi, a mio avviso, impropri negli anni passati, sempre con i soldi dei risparmiatori. D'accordissimo che questa prudenza, diciamo, vorremmo vederla anche in una certa operazione di trading. Se non ricordo male, il 70% dell'utile di Goldman Sachs del quarto trimestre dell'anno arrivava di nuovo ad operazioni di trading sul mercato, non di prestiti a medio e lungo termine. Sì, io sono un dirigente di Intesa San Paolo e quindi sono soddisfatto di essere un dirigente di Intesa San Paolo e rispondo per Intesa San Paolo. Quello che le altre banche internazionali fanno, bisogna chiederlo a loro. Mi fa piacere questa sua però precisazione, perché io ritengo che oggi sia molto importante, anziché di parlare di banche in forma indefinita, andare a valutare banca per banca e quindi i comportamenti di ciascuna banca, il modo di comportarsi con i propri clienti. Noi siamo una banca prevalentemente commerciale, con la C minuscola, cioè che vuole intermediare il denaro, raccoglierlo dai risparmiatori e darlo alle piccole, medie e grandi imprese. Ma l'inglese lo parlate? L'inglese lo parliamo quando serve, però prevalentemente lavoriamo in Italia e quindi prevalentemente parliamo in italiano. Anche in dialetto ogni tanto? A seconda. Chiaramente riferimento alla battuta del ministro Tremonti. Restiamo al tema di banche e imprese. Sempre per citare il ministro, lei ritiene che Basilea 3 possa essere la pietra tombale del rapporto banca-impresa, cioè che in questo momento tutto si debba fare tranne che irrigidire ulteriormente i criteri con cui la banca concede credito attraverso delle regole europee che poi si chiamano ratio, IAS, insomma, che sia il caso di tornare, mi passi il termine, a un umanesimo bancario in cui il direttore di filiale torna di nuovo a valutare il credito, certo con dei parametri, ma non solo sulla base di griglie e standard europei. Io credo che il fine ultimo di Basilea 3 sia positivo, cioè l'introdurre delle regole chiare, uguali per tutti, e che rafforzino il più possibile la struttura patrimoniale delle banche è certamente positivo e va nell'interesse di tutti. La circostanza che questo obiettivo si possa raggiungere nel tempo e quindi Basilea 3 non scatti immediatamente ma verrà introdotto progressivamente è proprio al servizio di tutto il sistema finanziario europeo per far sì che ciascuna banca possa trovare all'interno delle proprie specifiche attitudini patrimoniali, quindi o attraverso aumenti di capitale o attraverso ristrutturazione delle proprie fonti o attraverso riorganizzazione degli impieghi, il miglior equilibrio per rispettare i parametri di Basilea 3. Non credo che questo voglia dire un peggioramento del rapporto banca-impresa né l'irrigidimento del rapporto banca impresa. Io credo che in un mondo ideale che è sempre difficile da raggiungere, ma al quale non è improprio tendere, a mio avviso, dovremmo provare a che le banche siano più patrimonializzate e le aziende abbiano rating migliori. Allora a questo punto probabilmente tutte e due le parti potrebbero collaborare in maniera più sana e le imprese pagare meno il denaro e le banche correre meno rischi. È di ieri l'annuncio ufficiale del ministro Scajola al Parlamento che insomma è finita l'epoca degli incentivi auto e quindi vale per la Fiat ma anche per le altre case automobilistiche che vendono in Italia. Visto che voi siete stata una delle banche principali a sostenere il famoso prestito convertendo da 3 miliardi e 3 se non ricordo male di 3 miliardi e 300 milioni di euro che permise alla Fiat di sopravvivere, di iniziare l'era Marchionne e anche di non ricorrere agli aiuti di Stato, diciamo in maniera molto chiara, e quindi voi avete creduto con una quota importante anche lì, si avvicinava al miliardo se non ricordo male il vostro sforzo. Lei ritiene che alla fine un'industria come l'auto debba vivere, andare avanti con le proprie gambe, oppure quando un settore ha un indotto così importante, perché poi significa tutto l'indotto dell'auto, non solo della Fiat, beh, l'incentivo debba essere in questi casi la medicina necessaria. Il ragionamento va fatto per diversi settori e non solo per l'auto. Il tema del famoso convertendo Fiat ormai fa parte direi più della storia, è un'operazione del 2002, quindi ormai di anni che sono andati via. Secondo me Marchionne sta lavorando molto molto bene a una logica di internazionalizzazione totale del suo gruppo, cioè della Fiat, capendo perfettamente che oggi bisogna rinunciare all'idea che un'azienda è solo italiana o è solo francese o è solo tedesca o è solo giapponese. Le aziende sono anche dei mercati di sbocco, cioè le aziende oggi devono pensare di avvicinarsi sempre più ai clienti ovunque essi siano. La Fiat è un'azienda che vende in Europa, che vende negli Stati Uniti d'America, che vende in Brasile, che vende in Asia, e quindi la logica di guardare dove è possibile produrre a condizioni più competitive è un dovere di un amministratore delegato, perché lo fanno anche gli altri. Se non lo facesse lui sarebbe spazzato via dalla concorrenza. Per quanto riguarda gli incentivi, io sono sempre per logiche di mercato, quindi preferirei sempre che le aziende andassero avanti con le proprie gambe in funzione proprio delle performance aziendali che realizzano. Però ove questo avvenisse in tutti i paesi del mondo. Noi non ci possiamo permettere concorrenze non omogenee. Se altri grandi operatori industriali dell'auto e non beneficiano in determinati momenti storici di crisi, di peggioramento dei consumi mondiali, di aiuti governativi, io credo che anche le nostre aziende, ripeto, non solo dell'auto ma di altri settori, hanno diritto almeno a discuterli e in modo da poter competere ad armi pari. Beh, dicendo che la Fiat ha il diritto, ci mancherebbe, di andare a produrre dove le condizioni sono migliori, lei sta decretando insomma la fine dell'esperienza di Termini Imerese, detto da un siciliano, questo non la preoccupa o ritiene che in realtà quello stabilimento industriale sarà più competitivo con un altro soggetto, magari siciliano anch'esso, o comunque cinese o indiano? Io lavoro in banca e faccio il mio lavoro e quindi non conosco bene il perché lo stabilimento di Termini Imerese è o non è competitivo con altre realtà produttive sia italiane che estere della Fiat. Così appunto Gaetano Miciche, direttore generale del gruppo Intesa San Paolo, nella nostra intervista. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. A me non resta che ringraziare Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Vi ricordo che domani il programma sarà in diretta da Bari, dal Teatro Petruzzelli. Buona serata. Radio 24. La passione. Si sente.